Dimmi perché. Quando non rispondi mi sembra di morire. Quando non ci sei non sento più il sapore come vorrei. Passami un anestetico, cerca un nome per questo dolore metacronico. Vorrei solo un po' di attenzione, bombole di ossigeno, fino a sentirmi un orologio di De Chirico. Volerti è talmente cliché da sentirmi stupida, come quando ti ho visto al bar. Non sono riuscita a spiccicare neanche una parola oltre a salutare. Perché quando non rispondi mi sembra di morire. Quando non ci sei non sento più il sapore come vorrei. Sapere perché tu che non fai niente puoi farmi così male. Io che non sto ferma nemmeno ad aspettare per guarire, cosa farei? Navigo a vista e mi agito. Se per strada vedo uomini che ti assomigliano, cambio strada e le mie abitudini, ma poi mi viene da vomitare. Se non ci sei non ho nemmeno voglia di vestirmi bene. È vero che la creatività è un esercizio letale. Io ormai da un anno quando sono a letto mi invento un mondo che fa sembrare quello vero, così spero.